La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Oliviero Toscani, milanese, figlio del primo fotoreporter del Corriere della Sera, è un bambino allegro, vivace. In casa è il più piccolo, ha davanti il mondo e un paese, l'Italia, che uscita dalla guerra vuole ricominciare. Oliviero cresce senza troppi affanni, tra le strade di Milano in cui gioca con gli amici e una famiglia quasi tutta al femminile. Influenzato le sue scelte di vita professionali il lavoro di suo padre di fotoreporter? Beh, è chiaro, da bambino vivevo le news, il Corriere e tutto, poi però la fotografia si è evoluta, insomma io poi sono andato a scuola d'arte, scuola di fotografia, quindi ho cominciato sì a fare il reporter, ma non come mio padre faceva la cronaca, faceva. Poi quando ho cominciato io c'era la televisione, mio padre ha iniziato che non c'era la televisione, quindi il rapporto era tutto diverso. E com'era la sua famiglia, diciamo, d'origine nella quale lei è cresciuto? Ah beh, sono stato fortunato, una famiglia prima di tutto laica, mia madre lavorava, perché allora fare fotografo non è che uno fosse ricco, bene, anche al giorno d'oggi. Poi mie sorelle maggiori, tutte e due fotografe, quindi una famiglia di artigiani, proprio una famiglia artigiana, non si usava una volta. Lei ha detto anche in un'intervista al Corriere di essere stato fortunato proprio per questa cosa, di essere cresciuto con due sorelle maggiori e la sì, mamma sì. Qui in mezzo a queste donne. È davvero così? Cioè, quale sicuro. Grande. Mie sorelle, una aveva 11 anni più di me, l'altra 9 anni più di me. Quindi era avuto molto severe, ma molto divertenti. Non l'hanno soffocato anche in questo? Sì, anche, ma uno si ribella. No, voglio ancora bene mia sorella, ci vediamo sempre. È un bel rapporto. Senta, lei che tipo di bambino è stato? Perché uno, cioè, vedendola così, se lo immagina molto vivace, un bambino estroverso, sì. Estremamente estroverso. No, estroverso non lo so, ma comunque vivace. Sempre attivo. Non avevo paura della noia, insomma, non, e poi così indipendente, sì, abbastanza indipendente, perché anche avevo la possibilità, mia madre si fidava, insomma, poi non è che mi difendesse quando ci si sa, i ragazzini per strada ci si menava, una volta si viveva per strada, a Milano, quindi sì, a Milano, Corso Como. Il 25 aprile. Ed era com'era come zona Corso Como? Perché ah, non era configa come adesso, no, casa, io vivevo in una casa di ringhiera. Il vero Milano. Mi conoscevano tutti, il lettaio, Cosola, droghiere, macellaio, ciclista, l'elettricista, tutti conoscevamo. Noi ragazzini eravamo in giro tutto il giorno a giocare su marciapiede. Aveva una banda di amici con cui è logico. Tra l'altro è anche una zona molto pericolosa, perché dopo la guerra lì era tutto bombardato, adesso è stato tutto ricostruito, ma per anni, non so se lei ha visto, erano tutta una zona bombardata, non so se si ricorda, 10 anni fa lì c'erano ancora le macerie della guerra, sì, è vero. Dove c'è la stazione nord. E quindi ci sono stati anche dei bambini che sono saltati per aria con le bombe, insomma era un periodo pericoloso, ma noi giocavamo in mezzo alle macerie, questo mi ricordo. Il fatto di essere stati liberi così, di poter stare tra no, bambini? No, liberi, avevamo una responsabilità, chiaramente adesso c'è la legge che un bambino, un figlio non può lavorare prima dei 16 anni, ma mio padre l'aveva messo in galera, perché io a 6 anni lavoravo in studio con lui, aiutavo a asciugare le fotografie, a lavarle, a fare le robe. Ma è logico, ma questa storia, ma se sono tutti matti, un bambino non può lavorare per i 16 anni, ma mia mamma ha cominciato a lavorare a 6 anni, anche lei. Ma no, ma io penso che un bambino lavorava con sua mamma faceva la camiciaia in una ditta che faceva camicia da uomo e lei lavorava, insomma, portava la pila di camicie da un tavolo all'altro, insomma. Comunque partecipava, aveva il senso della partecipazione, della qualità, del lavoro. Il lavoro è il mezzo con cui ci esprimiamo, eh? Non ci si esprime in vacanza o facendo niente. Once upon a time you dress so fine, do the bumps of dime in your prime. Non va bene al liceo, Oliviero, ma va benissimo alla scuola di fotografia e grafica dell'Università delle Belle Arti di Zurigo, che frequenta tra il 61 e il 65. Ed è lì che Oliviero uscirà già forte delle sue idee. Foto di gruppo che rivelano una società per la quale Toscani non usa mezze frasi. Quando nessuno critica vuol dire che il lavoro è mediocre, che non interessa a nessuno. A me non interessa la ricerca del consenso. Tutti cercano il consenso al giorno d'oggi, si fanno rifare il naso, le tette, il culo per avere consenso, perché nessuno si vuol bene, nessuno crede in se stesso, allora si va dal medico di chirurgia estetica per farsi rifare, per essere accettati. Questa ricerca costante del consenso crea la mediocrità. Non a caso viviamo in una società di mediocri che vogliono diventare ricchi e famosi senza saper fare niente. Infatti il mestiere più ricercato è fare la modella, dove non devi proprio encefalogramma, intelligenza zero, cammini e tutti. Non c'è bisogno di performance intellettuale, non c'è bisogno di cultura, basta dare in televisione questi programmi demenziali e uno diventa famoso, perfetto. La pigrizia ormai è il linguaggio comune di tutti. La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Oliviero Toscani è un fotografo di fama internazionale. È un padre, ha 6 figli. I 3 più giovani vivono con lui in un casale in campagna. Oliviero è nato nel 1942 a Milano da una famiglia di fotografi. Le origini di Oliviero Toscani sono da cercare in una casa di ringhiera in Corso Como, quando nel quartiere milanese vivevano lavoratori e artigiani e di sera la gente metteva la sedia fuori in cortile a chiacchierare. Il padre di Toscani è un fotografo del Corriere, anche la madre e le sorelle sono fotografe. Lui è il più piccolo, studia fotografia perché, dice, non ha scelta, ma in realtà le possibilità le avrebbe, è libero, in una famiglia libera. Oliviero sceglie dunque e la sua prima volta e quando, finito con difficoltà il liceo, va a Zurigo e frequenta un corso universitario di fotografia e grafica. E appena uscito dall'università e già firma la sua prima campagna pubblicitaria. Vuole tutto fare l'architetto, anche vuole tutto fare tante altre cose, penso che. Però non rimpiango, è più importante come si fa che cosa si fa. Se la ricorda la sua prima campagna di grande successo, quella in cui si è cominciato a parlare di Oliviero Toscani? Ma subito, appena uscito da scuola, ebbi l'occasione, vinsi un concorso per le Eni faceva, lanciava una nuova fibra che si chiamava Leacryl. Fece un concorso fra fotografi e io lo vinsi e feci questa campagna e fu la campagna uscì in doppia pagina a colore sul Giorno. La prima volta che il Giorno faceva il giornale a colori, nel 65 proprio, e c'erano queste fotografie in doppia pagina di tre ragazzine con le magliette a righe che facevano un po' le matte per la città. Quindi subito fui notato. E cosa dicevano? Cioè, quali furono le recensioni? Ma era tutto nuovo, il rapporto, le ragazzine erano tre tipo ye-ye, che allora le donne erano diverse, erano ragazzine della mia generazione, che se ascoltavano i Beatles, non era così ovvio. La Milano era un po' una roba da molto triste, borghese, quindi la campagna fu molto notata. E poi cominciai subito, mi chiamarono subito i giornali di moda, tra l'altro in tutto il mondo, e cominciai subito a lavorare. Insomma, io a 25 anni giravo il mondo a fotografare le più belle donne per i più giornali di moda del mondo. E ancora oggi lei è considerato uno dei talenti più potenti e illustri? I più giovani, sì. Secondo lei perché? Ma non lo so, io quella cosa mi è bello, perché soprattutto mi conoscono i giovani, insomma, questo è un gran piacere. Di solito uno alla mia età, insomma, sono tutti un po' di barboni, no? Delle grandi noie, no, ma trovo che sia molto piacevole questo. Devo dire, è un atteggiamento che anch'io devo dire con me stesso. Mi alzo la mattina e dico, Madonna, ho 71 anni, non è uno scherzo. Sì, si vede che di notte sogno delle cose da ventenne ancora, lo so. Ma invece le dico questa cosa mia personale, perché quando ero ragazzina, a me le sue campagne, anche quelle di Benetton, no, sembravano estremamente poetiche, invece mi ricordo che alcuni miei insegnanti le valutavano volgari, no? Ma sicuramente la volgarità mi dà fastidio, non ho mai fatto foto volgari, che ne dicano i suoi insegnanti, niente era volgare quello che ho fatto, e lo ancora. Perché la volgarità vuol dire cattiva qualità, semplicemente cattiva qualità. Penso di poter, conosco bene il mio mestiere tecnicamente, ma molto bene, proprio questo è stato il mio grande vantaggio, di aver fatto le scuole che ho fatto, non il liceo, perché invece del liceo andavo al cinema, quindi è stata una scuola bellissima anche quella. Poi la scuola d'arte, 5 anni a Zurigo, che mi ha dato una preparazione incredibile, che ancora adesso mi trovo vantaggiato di fronte a tutti questi giovani davanti al computer. E poi così è il modo di affrontare la vita, non so come dire. No, ma del resto siamo proprio una generazione così, io ho l'età dei Rolling Stones, insomma, ho l'età di Bob Dylan, sono ancora lì che cantano e saltano, no? È vero. Non so come mai, ma è una generazione un po' fatta un po' così, poi non sono proprio la generazione 68, siamo prima noi, quelli 68 erano tristi, erano politicizzati, rompicoglioni, sono i Gad Lerner, questi qua, no? Noi veniamo prima, siamo quelli che dicevamo l'immaginazione al potere e non la politica al potere. Senta, le faccio un'ultima domanda personale. Lei che padre, che rapporto ha con i suoi figli? Ma non so, un padre com'è, ogni padre è diverso. Credo che io ho un pregio come padre. Fianco a tantissimi difetti umani, perché si diventa padre e non ha ancora imparato di essere figlio, insomma, no? Quindi sono la cosa più giusta che ho è l'onestà, sono quello che sono per loro, non voglio fare il padre, il maestro, no, sono quello, sono io, cioè è meglio avere un padre ladro onesto che un padre falso e no, un padre banchiere ricco, disonesto, cioè come dire. Secondo lei la fotografia è un'arte pigra rispetto alla pittura? No, la fotografia è l'arte, moderna, da quando c'è la fotografia c'è la storia, c'è la condizione umana, prima non c'era né la storia né la condizione umana, No, forse un po' di condizione umana nella pittura c'è, di sicuro, ma non c'è la storia, non è credibile. La prima volta termina qua, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi rinnovo l'appuntamento sempre per domenica prossima, sempre attorno alle 13, se volete potete riascoltarci in podcast, potete cercare sul sito di Radio 24 anche la pagina dedicata a questa trasmissione, c'è anche un blog e c'è anche uno spazio su Facebook. Vi ringrazio per l'ascolto, buona giornata e buona domenica da Cristina Carpinelli.